America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da Cleveland, alla convention repubblicana. Mario Platero. And it is my honor to be able to throw Donald Trump over the top in the delegate count tonight. Congratulations, Dad, we love you! Donald Trump Jr., il figlio di Donald Trump, lo avete sentito, è il momento clou della serata di ieri, che dice: è un onore poter essere colui che consente a Donald Trump di superare la soglia dei delegati necessari per la nomination repubblicano. Gli assegno gli 89 delegati di cui ha bisogno. Complimenti, papà, ti vogliamo bene. Devo dire, ormai non si guarda più indietro. Le battaglie, le divisioni, le acrimonie che abbiamo sentito ancora lunedì, il primo giorno della convention repubblicana di Cleveland, quando c'è stata polemica su Melanie perché aveva copiato qualcosa dal discorso di Michelle Obama, quando ci sono state delle proteste nell'arena, tutte queste divisioni non sono più possibili. Da ieri sera, intorno alle 9, Donald Trump è stato nominato formalmente dai delegati in sala il candidato per la Casa Bianca del 2016, con una maggioranza di 1725 delegati, ben più ampia dei 1237 necessari per la nomination. Ecco, il momento, pur nella sua ufficialità e, se vogliamo, nell'aridità apparente che deriva dalla monotona contralettura dei numeri, è come sempre, almeno per me, che mi sono trovato in varie volte in queste convention, inaspettatamente emozionante. Intanto perché, come vi ho detto in apertura, il conferimento dei delegati di New York è venuto dal figlio, da Donald Trump Jr., e quindi c'è stato un momento di forte partecipazione. Trump Jr. ha parlato bene, un bel ragazzo di 38 anni, è il primogenito, e ha pronunciato poi un discorso più tardi sentito, efficace, sulle qualità del padre come patriarca della famiglia, ma anche come uomo d'affari determinato, deciso, pronto a raccogliere ogni sfida possibile, come ha detto, in grado di trasformare la nostra economia. Si è anche parlato parecchio di economia ieri sera. Sentiamo come ha reagito Trump. Watching my children put me over the top earlier, I'll never forget it. It's something I will never ever forget. Ecco, Trump ha parlato della Trump Tower, non era qui a Cleveland, era a New York. Ha detto: è stato un grande onore essere stato proclamato il candidato per la corsa repubblicana dei miei figli. Ci stiamo divertendo molto, stasera è stata davvero una bella giornata, non me la dimenticherò mai, davvero mai. Trump ha anche ricordato di essere il delegato che ha raccolto il maggior numero di preferenze nella storia. Abbiamo creato un movimento, ha detto, portiamolo fino in fondo. Ma l'emozione del momento direi che c'è perché davanti agli occhi, nella grande arena, scorre l'intero paese. Scorrono i 50 stati che in alcuni casi hanno votato per Ted Cruz o per Marco Rubio, ma non per Trump. Scorrono i ricordi delle polemiche feroci di una stagione delle primarie che ci ha regalato la più sorprendente e combattuta corsa elettorale degli ultimi decenni, sia per democratici che per repubblicani, tra l'altro. E così si rivedono le battaglie, i colpi bassi, gli insulti, si riascoltano le ipotesi di congiura che avrebbero voluto trasformare questa convention in una broker convention per far fuori Donald Trump, per sostituirlo con qualcun altro, magari scelto dal partito, un partito disturbato dal successo di questo ingombrante troppe volte, perché lo è stato più volte, imbarazzante outsider. The great state of Connecticut is casting all 28 delegates for the next president of the United States, Donald J. Trump. Pursuant to the announcement of the delegation and the rules of this convention, Connecticut, 28 votes Trump. Ecco, il momento del roll call, come si chiama, cioè la chiamata ai voti, diciamo, è emozionante, infine, perché i 50 stati raccontano attraverso il loro presidente di turno, ogni stato ha una delegazione, c'è il presidente della delegazione che parla per il gruppo, e raccontano le rispettive meraviglie, da Disneyland alle spiagge per la Florida, dalle grandi pinete dell'Oregon all'Harley Davidson del Wisconsin. Insomma, ciascuno degli stati racconta qualcosa di sé. Appena un minuto, che però diventa un elemento unificante dell'intero paese. Ecco, questo intero paese che ci scorre rapidamente davanti agli occhi, la federazione tutta che dimostra ogni 4 anni, per gli ultimi 220 anni, di avere una democrazia che funziona. Devo dire anche in occasioni come queste che ci si rende conto come, pur fra le mille difficoltà, perché le difficoltà ci sono, l'America resti un'ancora, un punto di riferimento solido per chi come succede da noi in Europa, si accorge di avere un'unione monca, una burocrazia che non ispira i suoi cittadini, una disaffezione per l'idea di un'unione più grande di quelle nazionali, come ci ha detto con chiarezza il voto per Brexit. What do you say that we unify this party? What do you say that we unify this party at this crucial moment when unity is everything? Let's compete in every part of America and turn out of the polls like every last vote matters because it will. Paul Ryan, ecco, avete sentito Paul Ryan, il presidente della Camera, che con Mitch McConnell, di fatto, Mitch McConnell presidente della maggioranza repubblicana al Senato, di fatto ha riunito il partito, perché la serata di ieri è stata la serata, vi dicevo, della riunificazione. Sia Mitch McConnell che Paul Ryan, tra l'altro, all'inizio erano molto freddi nei confronti di Donald Trump, lo vedevano come troppo diverso da loro. E Ryan che dice? Dice esattamente questo: che ne dite di unificare questo partito, di farlo proprio in questo momento cruciale, quando l'unità è tutto, andiamo a competere con i nostri avversari in ogni stato fino all'ultimo voto. Ecco, come vi dicevo, si è recuperata con questi due leader l'unità tra il partito e il candidato, tra virgolette, scomodo. Ecco, c'è qualcuno come New York Times che sostiene che le divisioni restano, che le fazioni ostili a Trump continueranno a creargli difficoltà, ricorda le difficoltà del discorso di Melania. Sì, in effetti questo è stato un episodio imbarazzante. È possibile che ci siano ancora delle divisioni, però così non è sembrato ieri sera nell'arena di Cleveland, perché alla fine da oggi il partito repubblicano è formalmente assegnato alle cure, magari un po' brusche, di Trump. Da oggi il partito è suo, non di coloro che lo attaccavano. È un partito che sta cambiando e i timori per una spaccatura sono rientrati, direi, del tutto, anche perché adesso l'elemento unificante principale diventa battere Hillary Clinton. Come ha detto Chris Christie, governatore del New Jersey, grande amico alleato di Trump, che potrebbe ricevere un incarico ministeriale in caso di vittoria, era tra l'altro uno dei candidati per la vicepresidenza. Ecco, che succede dunque? E Christie, devo dire, è stato un po' il simbolo ieri sera di questo sviluppo. Succede che la durezza degli attacchi fra i 17 candidati alle primarie si è trasferita per intero contro Hillary, e contro di lei Christie ha fatto una vera e propria arringa simulando un processo in tribunale, ha ripreso tutti gli episodi controversi, da Benghazi allo scandalo delle email, e li ha elencati come capi d'accusa, terminando per ciascuna, chiamiamola irregolarità presunta, una sentenza di colpevolezza. E la base è impazzita. Sentiamo, perché è stato un momento molto divertente. As to Hillary Clinton lying to the American people in making our secrets vulnerable, what's your verdict? Guilty or not guilty? Ecco, hai sentito Christie che dice: è colpevole, she's guilty, e la base che risponde: lock her up, rinchiudetela, rinchiudetela ovviamente in prigione. Insomma, lo scontro fra Trump e Hillary sarà durissimo, ci prepareremo dopo la convention di Philadelphia della settimana prossima a un nuovo capitolo di questa battaglia elettorale, ma alla fine uno dei due sarà sconfitto e concederà la vittoria all'altro, per riunire questa volta non più un partito, ma l'intero paese. Un paese afflitto da una triplice crisi economica, razziale, di leadership politica, ma capace anche di ritrovare ogni 4 anni l'energia per rinnovarsi e guardare in avanti. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, direi che c'è solo una canzone che possiamo fare oggi, ed è la canzone che è stata suonata quando Donald Trump ha superato la soglia che gli ha dato la nomination. New York, New York, di Frank Sinatra. Start spreading the news, I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray. Da Cleveland è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!